Riflessi d'Oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. La nuova ostensione della Sindone avverrà nel Duomo di Torino dal 10 aprile al 23 maggio e il 2 maggio a rendere omaggio ci sarà anche il Papa. I pellegrini prenotati sono già tantissimi, come ci spiega Marco Bonatti del comitato organizzatore dell'evento. 1.036.000 via internet e via telefono. Vogliamo ricordare il numero? Il numero è 008.000 Sindone. Cioè, sulla tastiera del telefono si compone 008.000 e poi 7 per S, 6 per I, 7 per S, eccetera. Cioè, è stato scelto un numero che si possa ricordare, uno va a scrivere Sindone e sta componendo il numero. Quando chiuderete le prenotazioni? Non le chiudiamo, non c'è neanche un tetto massimo definito. Vedremo di allungare l'orario della, per esempio alla sera, che ci possa essere più disponibilità di tempo per passare, oppure troveremo qualche altra cosa e cerchiamo ovviamente di accogliere tutti. Quanti pellegrini vi attendete? Ma sa, le previsioni sono, noi ne abbiamo fatte dall'inizio, speravamo di avere 1.500.000. Adesso, a 2 mesi dall'inizio, abbiamo già 1.000.000 di prenotati, quindi probabilmente le nostre speranze si avverano, no? Poi credo che se arriviamo a 2 milioni siamo tutti molto contenti. Nel 2000 quanti furono i pellegrini? Poco più di 1.000.000, ma nel 2000 c'era due coincidenze, cioè la fortissima attrazione di Roma per il giubileo dell'anno santo e il fatto che la stazione precedente era stata solo 2 anni prima, nel 98, dove erano venuti 2.500.000 di persone, quindi molti non sono poi tornati. Ci sarà un pellegrino di eccezione il 2 maggio, il Papa. Come si articola la visita del Papa? È ancora in via di definizione il programma. Ci sono 2 cose sicure, che sono la visita di Benedetto XVI alla Sindone e la messa, che molto probabilmente sarà in Piazza San Carlo. Tante le iniziative a margine di questo importante evento. Il lenzuolo più famoso della storia diventa un cartone animato. E voilà, la Sindone! Prendiamolo! La Sindone si trova a Torino dal 1578. La Sindone, come non l'avete mai vista. No, cosa fa? Dava la Sindone. Diffidate delle imitazioni. Questo è, lo avete sentito, un cartone animato in pillole in onda da qualche settimana su Rai 1 la domenica. Mario Durando è il frate che dirige la società torinese di produzione dei cappuccini Nova T. È strutturata in 26 puntate da circa 2 minuti l'una. Sono delle piccole pillole, diciamo, che raccontano tutta la storia della Sindone, i problemi legati alla Sindone, in un linguaggio chiaramente per giovani, per bambini, ma che può anche essere un buon linguaggio per adulti. Ogni puntata vuole rispondere a una curiosità, a un mistero della storia millenaria della Sindone. C'è, secondo lei, ancora poca conoscenza di tutto quello che riguarda la Sindone tra i ragazzi? Penso di sì, penso che appunto stimolando un po' la curiosità, aiutandoli anche con un libretto che sarà allegato alla pubblicazione in DVD che uscirà presso le edizioni paoline, stimolandoli anche con una bibliografia che abbiamo voluto ragionata e anche adatta ai giovani oltre che agli adulti, possa rispondere a questo cartone a molte delle curiosità e anche a molte lacune che si intravedono in questa conoscenza. San Francesco, il santo di Assisi, come modello per il dialogo tra musulmani e cristiani al giorno d'oggi. Ad indicarlo è stato il Papa. E conoscere la spiritualità islamica per vincere la paura è lo spirito con cui il messaggero di Sant'Antonio ha deciso di pubblicare nella collana Dialogo il libro di Yahya Pallavicini, imam di Milano, il misericordioso. Padre Edoardo Scognamiglio. Ci siamo incontrati già tanti anni fa durante alcuni convegni presso la Università del Vaticano, l'Urbaniana, dove io insegno. L'abbiamo già invitato in diverse occasioni e poi l'abbiamo invitato a Napoli, la nostra facoltà, per creare un contatto proprio con un settore della teologia che si occupa delle religioni, con particolare riferimento all'Islam. Quindi poi abbiamo messo su questa collana con la Messaggero, che è abbastanza sensibile al tema del dialogo interreligioso, e quindi ecco, poi il testo, frutto insomma di una lunga conversazione, di più incontri, di più esperienze. Yahya Pallavicini è stato nostro ospite a Napoli, a Caserta, a Roma, quindi c'è una buona intesa, una buona collaborazione. Sono piccoli segni per noi di un dialogo quotidiano che spesso non appare sui giornali, per le radio, insomma, perché i mass media tendono sempre un po' a mettere in evidenza quello che non è dialogo e a confondere l'Islam, insomma, come la violenza, come religione di potere e di ideologia, ma non è così. Ci occupiamo proprio di questo, cioè di formare ad una concreta pedagogia del dialogo, per cui i temi dell'alterità, della diversità, della differenza nei nostri conventi e nelle nostre strutture sono di casa. Per cui una grande azione che occorre fare in questo nostro tempo postmoderno è quello di aiutare le nuove generazioni giovani a comprendere che l'altro non è mai una minaccia per noi, ma una grande risorsa. Ora c'è Don Willy Volonteno e ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Vorrei continuare idealmente il dialogo con la comunità ebraica dopo la recente visita storica e splendida di Papa Benedetto alla Sinagoga di Roma. Tutti sappiamo che l'operato di Papa Pio XII durante gli ultimi anni del regime nazista è il motivo principale di contrasto tra ebrei e cristiani. Attendiamo tutti a una riflessione leale e approfondita di quel frangente. Ma esiste pure un ma che altrettanto mi induce a riflettere su un personaggio di quell'epoca che ricoprì una responsabilità di primo piano nella comunità ebraica romana. Si tratta del rabbino capo Israel Zolli, personaggio che la comunità ebraica di Roma non ricorda mai e che ritengo invece un personaggio chiave per comprendere e valutare quel drammatico periodo e di conseguenza anche l'operato di Papa Pio XII. Nel 1945, guerra terminata, il rabbino capo di Roma, Zolli, si convertì al cattolicesimo e fu battezzato con il nome di Eugenio, cioè con il nome del Papa allora regnante, Eugenio Pacelli, in segno di riconoscenza per questo Papa che fece così tanto per salvare gli ebrei. Fu in quell'epoca un episodio clamoroso e dirompente, soprattutto per la sua autobiografia pubblicata negli Stati Uniti. Naturalmente del rabbino capo di Roma Zolli i fratelli ebrei non ne parlano, eppure bisogna rammentare quella storia intima e sofferta soprattutto per l'adesione libera e consapevole alla fede cattolica di un rabbino capo. L'autobiografia autorizzata di Eugenio Zolli è uscita nel 2004 in italiano. Forse vale la pena che i miei fratelli ebrei si ricordino del rabbino capo di Roma Zolli e della sua libera conversione al cattolicesimo quando affronteranno la complessa e pur grande figura di Papa Pio XII.